Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sarà il Parlamento e non il governo a decidere se acquistare o meno gli F-35. E cosa ce ne facciamo dei cacciabombardieri F-35? Chi dobbiamo cacciabombardare? No, non è che li dobbiamo comprare solo per fare la parata del 2 giugno, che consumano come 20.000 Fiat Punto, eh? Gli F-35 sono dei cacciabombardieri e quindi sono anticostituzionali, perché sono aerei di guerra. In un momento in cui questo paese sta soffrendo così tanto, dove le piccole e medie imprese stanno chiudendo, dove ci sono cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, è completamente illogico e senza senso mettere in preventivo per quest'anno 4,9 miliardi di euro per acquistare cacciabombardieri. Quindi l'illogicità non fa parte né del Movimento 5 Stelle né dei cittadini italiani. Io credo che se oggi facessimo un referendum popolare non acquisteremmo neanche... Questa è la posizione più popolarmente condivisa, parlare fico del Movimento 5 Stelle, visto che in Italia oggi si sta parlando di cacciabombardieri come se si parlasse di acquisti per formare delle squadre di calcio. Mi sembra che questa mattina forse una delle cose migliori che possiamo fare è rifare un punto informativo sulla materia di cui stiamo parlando. Le Camere non è che abbiano avuto una posizione netta, decideranno, ci saranno altri 6 mesi per decidere, le forze politiche non riescono a trovare un accordo su questo che è diventato una grossa patata bollente, in un momento in cui tutti stringono la cinghia, in cui si fanno i conti al centesimo, sia nei budget familiari, sia nei budget pubblici. È logico che alla maggior parte degli italiani sembri una spesa folle, un investimento cospicuo in cacciabombardieri. L'ha sintetizzato Luciana Littizzetto nel suo pezzo, dice: ma cosa ci facciamo con i cacciabombardieri? Ci facciamo la parata del 2 giugno. Probabilmente il problema non è di così facile risoluzione, non può essere risolto in maniera né demagogica né approssimativa. Vediamo se questa mattina riusciamo a fare un punto lievemente più esatto, perlomeno sulla materia di cui stiamo parlando. Io so che abbiamo fatto in passato una puntata sugli F-35 e sono rimasto colpito e stupito dalle capacità tecniche di analisi dei miei ascoltatori. Beh, tutti gli ascoltatori che hanno dato il loro contributo un paio di mesi fa quando ne parlammo sono chiamati questa mattina, alla luce del non pronunciamento che c'è stato, aspettare 6 mesi poi significa che chi è a favore dice: benissimo, visto non è passata la mozione di non acquistarli, quindi fra 6 mesi non possiamo che acquistarli, e gli altri dicono: no, vedete, abbiamo messo in crisi un sistema che dava per scontato che si potessero acquistare. 800 24 00 24, questa mattina parliamo degli F, cioè degli F-35, come voi parlate questa mattina, se è il caso o no di comprare il telefonino nuovo o quanto si possa spendere a testa per le vacanze estive. Una volta i problemi al casco del pilota, un'altra volta ecco le fragilità post atterraggio, ora la vulnerabilità ai fulmini, sembrerebbe. Di questi F-35 a rischio fulmini, secondo un documento del Pentagono, l'Italia ne ha acquistati 90, che dovrebbero rimpiazzare altri 252 aerei tra MX e Tornado. Un acquisto che costa al nostro paese 15 miliardi, una spesa necessaria, secondo il responsabile dell'Agenzia della Difesa, che è quella che compra gli aerei. Perché l'Italia nei prossimi anni dovrà sostituire oltre 250 velivoli AMX, Tornado e AV-8B, che in questo momento equipaggiano i reparti della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Non c'è un'alternativa più economica e tecnologicamente equivalente all'F-35 in grado di sostituire AMX, Tornado e AV-8B. Gianandrea Gaiani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Gianandrea Gaiani ci ha accompagnato tutte le volte, noi siamo posti il problema se acquistare o no gli F-35. Un giornalista, dirige il mensile web analisidifesa.it, si occupa appunto di analisi storico-strategiche e studi su conflitti internazionali, è un collaboratore del Sole 24 Ore. Oggi sulla Stampa c'è una sua intervista, nei soliti pro e contro che fanno i giornali, due interviste. Da una parte c'è Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che dice che in realtà è una spesa che va fatta, si può ammortizzare nell'arco di 30 anni, e l'altra intervista fatta appunto al nostro Gianandrea Gaiani, che dice è una scelta suicida. Innanzitutto, Gaiani, cosa ne pensi, diciamo, di questa sorta di barcamenarsi per mantenere la patata bollente il meno pericolosa da gestire politicamente per altri 6 mesi? Ma senti, intanto il problema politico di decidere o meno se acquistare l'F-35 si trascina dalla fine degli anni 90. È curioso che esploda oggi con contratti già firmati e oltre 3 miliardi di euro già spesi dal nostro Stato. Che governo problema. Era quando fu decisa, diciamo, fu fatta la firma del contratto? Ma noi abbiamo cominciato con un governo Prodi, però tutti i governi successivi di centrodestra e di centrosinistra hanno sottoscritto le varie fasi d'avanzamento del programma F-35. Guarda, io sono stato forse, ho sempre avuto una posizione critica sull'F-35, non perché è un equipaggiamento militare, ovviamente come dicono i pacifisti è meglio comprare, costruire asili nido, no? Che è come se lo Stato non avesse altra funzione che la scuola o la sanità, costruire ospedali, lo Stato ha anche una funzione che è quella di garantirci la difesa. Ma io ho sempre sostenuto, è la mia opinione ovviamente, che questo tipo di aeroplano ci ucciderà sul piano strategico. Perché? Perché ci riporta nelle mani degli americani. E questo è il vero difetto, perché è facile dire oggi che l'F-35 ha dei problemi. Come tutti gli aerei nuovi, tutte le nuove tecnologie, ha bisogno di tempo per essere messo a punto. Tempo e denaro, perché il suo costo intanto sta aumentando. Ma questo non è un problema dell'F-35, è un problema che hanno avuto tutti i programmi militari, che partono con una previsione di spesa 10 e finiscono spesso che la spesa reale è 20 o 25. Adesso non so se il paragone è per far capire a persone come me ignoranti, è come uno decide, una famiglia decide di acquistare un computer perché è una spesa utile, decidono, si fanno i conti del budget, al momento lo vanno a acquistare, già esiste una macchina di altro tipo, più avanzata, che costa molto di più, e quindi si pongono di fronte al problema: noi avevamo fatto i conti su questo, ma già dobbiamo prenderne un altro, è qualcosa del genere. Secondo me è come invece, se vogliamo fare un paragone a mio parere calzante, è come se tu dovessi acquistare una nuova automobile, andassi in concessionario, ti facessero un preventivo, tu sottoscrivessi il preventivo e l'acquisizione, e nel momento in cui la vai a ritirare ti dicono: guarda, devi aspettare ancora 6 mesi, intanto però il prezzo è aumentato. Beh, se uno aspetta 15 anni per comprarla potrebbe accadere, no, anche però ecco questo. Sì, però questo non è il problema dell'F-35, è un problema che ha riguardato tutti i programmi militari, soprattutto quelli ad altissima tecnologia, che sulla carta si dovrebbe sviluppare questa tecnologia in tot anni, in realtà ne richiede di più perché i problemi ci sono. L'F-35 i problemi adesso ne ha tanti, io sono convinto che potrebbe anche diventare un aereo il più efficiente ed efficace aereo da guerra del mondo. Però quindi mi sembra chiaro che la tua posizione è vero che è molto condivisa dagli ascoltatori che stanno già scrivendo gli SMS, è quella di dire: comunque sia, ogni aereo che si acquista avrebbe comunque dei problemi, avrebbe bisogno di un upgrade, saremo comunque legati al costruttore, al fabbricante per tutta una serie di manutenzioni. Però in particolare in questo momento proprio un problema di scelta industriale, se favorire un'industria americana o favorire un'industria magari di altro tipo. Ma senti, noi abbiamo sviluppato, noi europei e noi italiani, abbiamo speso un sacco di soldi per lo sviluppo di 2 aeroplani negli anni scorsi, il Tornado, primo bombardiere europeo costruito da un consorzio con i tedeschi, con i britannici, e poi con l'Eurofighter, un caccia che è anche un caccia bombardiere costruito da italiani, spagnoli, tedeschi e britannici insieme. Queste costruzioni ci hanno affrancato dagli americani. Siamo capaci come europei di progettare, produrre, esportare in concorrenza con gli americani aerei da guerra. Oggi questo Eurofighter, il Typhoon, aereo europeo, noi l'abbiamo in servizio, lo usiamo solo come caccia. I tedeschi ad esempio non comprano l'F-35, pur avendo un bilancio della difesa che è il doppio, oltre il doppio del nostro, loro avranno una linea di volo in futuro solo sul Typhoon, che verranno usati questi Eurofighter, aerei europei, anche per l'attacco al suolo, cosa che gli inglesi hanno già fatto ad esempio nell'ultima guerra in Libia. Quindi noi ce l'abbiamo già un caccia bombardiere. Quindi ce l'avremo già in casa e ci costerebbe probabilmente anche meno e darebbe comunque vantaggio a un'industria di cui facciamo anche noi parte. Sta scrivendo molti ascoltatori, guarda, andate a vedere chi li costruisce, chi ci guadagna sull'acquisto di questi F-35, è sempre le solite 4 persone, tutti dicono le stesse cose più o meno. No, ma vedi, il problema penso che sia realmente questo, che noi con l'Eurofighter, di cui abbiamo ordinato 121 aerei, poi ridotto a 96, dei 96 che compreremo, i primi 24 che hanno pochi anni di vita, stiamo cercando l'aeronautica di svenderli sul mercato dell'usato, buttando, sprecando denaro che abbiamo già speso per sviluppare questo aereo. Poi qualcuno dice che l'F-35 sarà molto più avanzato dell'Eurofighter, questo è possibile, lo vedremo, ma a chi dobbiamo fare la guerra? Ai marziani? Fermiamoci questo un secondo, però, sentiamo Gianni. Gianni, ascoltatore Gianni, primi ascoltatori, avete sentito, abbiamo posto il problema in termini abbastanza singolari rispetto al grande dibattito, gli aerei sono strumenti di guerra, costruiamo le scuole, aiutiamo le famiglie, che è un discorso che è altrettanto utopico. Però ci sta dicendo Gianandrea Gaiani che in effetti la scelta non è tanto sull'aereo o su un aereo, ma sarebbe forse meglio investire in un aereo che è anglo-italo-tedesco-spagnolo, cioè fatto da noi, in parte ne avremmo anche dei vantaggi, piuttosto che andare ancora una volta a legarsi a un'industria lontana da cui non avremmo nessun vantaggio. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io come ho detto alle persone sono un dipendente di Alenio, ho lavorato per 41 anni su questi settori, si parte da lontano dallo scandalo Lodis. Quindi con questi C-130, poi noi li abbiamo sviluppati tutti, i 130H, li abbiamo fatti delle macchine perfette, all'improvviso qualcuno li ha deciso di vendere a comprare i jet che sono un aborto di aereo. Sono un aborto di aereo, lo vado a macchinare. Ci spieghi meglio Gianni, perché voglio capire, visto che lei ha lavorato alla Alenia. Io ho lavorato per 25 anni C-130H. Erano gli aerei che avevamo prima da trasporto logistico. Sì, il C-130, quello. Adesso quelli hanno deciso di comprare i jet, ne hanno comprati 25, noi ne avevamo 13 di questi qua, perché uno si era rotto a Malpensa e l'altro era caduto, come se li ricorda, sulle montagne di Pisa con dei paradelli. Eh sì, fu una tragedia. Una tragedia famosa quando cadde. Esatto, certo. Questi aerei noi... Infatti furono fermi per tanto tempo i C-130 quando accadde questo. Poi gli hanno dati, io lavoravo anche con un Augusto, ho lavorato 25 anni, quindi questi aerei poi noi li abbiamo sviluppati, li abbiamo messi la difesa, li abbiamo corazzati, li abbiamo messi i satellitari, potevano fare anche la guerra, cioè non erano armati come ce li hanno gli americani, però... Li abbiamo elaborati, diciamo. Esatto, li abbiamo elaborati, li abbiamo sviluppati, li abbiamo fatto un sacco di cose. E adesso qualcuno mi deve spiegare come mai gli americani volano ancora con quell'aereo vecchio. E non con i nuovi trasportano solo il personale, perché noi con quegli J non possiamo fare neanche i lanci dei parà, perché qualcuno non lo dice, hanno diminuito la potenza del motore perché si spaccava tutto, non potevano atterrare la versione prolungata, non poteva atterrare perché, come si dice in gergo, sculacciavano le aeree, erano cariche. E lei come se lo spiega Gianni? Come ve lo spiego? Che c'è comunque uno scandalo logico in giro sempre e comunque quando si parla del piano di difesa, ecco, mi capisce quello che voglio dire. Noi ce l'abbiamo, come ha detto l'interlocutore di prima che stava parlando, ce l'abbiamo già i caccia, il Tornado e tutti quegli altri, ma che ne dobbiamo fare di questi qua? Ma no, anche senza dire scuole, medicine, non ci servono. A che dobbiamo fare la guerra, come ha detto, agli UFO? Cioè, non ho capito. Resti in ascolto, Gianni, resti in ascolto. Allora, Gianandrea Gaiani ci ha chiamato un ascoltatore, telefonata arrivata casualmente, che ancora una volta dimostra questa straordinaria capacità di analisi tecnica rispetto alla nostra difesa aeronautica degli ascoltatori di Radio 24. Cosa ne dici innanzitutto della lettura dell'ascoltatore Gianni, che ha lavorato comunque nell'azienda aeronautica? Ma lui parlava degli aerei da trasporto, sì. Cargo C-130, io devo dire che, per quanto ne so io, anche la versione più aggiornata, il C-130J, sta avendo un ottimo risultato di esportazione in tutto il mondo e con ottime prestazioni. Io non sono a conoscenza di particolari problemi di quest'ultima versione, può darsi che lui ne sappia di più, io non, su questo argomento non saprei cosa dire. Sì, però più o meno il concetto ribadisce lo stesso. Il concetto è questo, che noi se dobbiamo acquistare un aereo da trasporto, abbiamo preso il C-130 ritirandoci fuori da un programma europeo, l'A400, per un aereo più grande, che forse adesso sta vedendo la luce, un aereo quindi europeo che ha avuto grossi ritardi e quindi ci sono fatte delle scelte politiche anche allora di scegliere un prodotto americano, è una scelta che venne fatta col governo Berlusconi all'inizio nel 2002. Per quanto riguarda invece il caccia bombardiere, cioè l'aereo da combattimento, io credo dobbiamo tener conto di due aspetti. Il primo è questo: il bilancio della difesa italiano è molto basso e lo sarà sempre di più in futuro con l'area che tira sul fronte economico. Quindi spendiamo poco rispetto alla media europea? Ma insomma, diciamo che abbiamo un bilancio della difesa che è meno della metà di quello francese e tedesco. Perché prendo questi due paragoni, Francia e Germania? Perché entrambi i paesi, per risparmiare risorse, hanno deciso di costruire le loro flotte di aerei da guerra su un unico modello che faccia sia le operazioni contro altri aerei, quindi operazioni aria-aria, diciamo così, sia le operazioni di attacco al suolo, di bombardamento contro bersagli a terra. I francesi con il Rafale, i tedeschi con l'Eurofighter Typhoon, di cui siamo anche noi produttori. produttori, partner in questo consorzio europeo. E questa allora, è una strategia ormai accertata, che è la strategia migliore di comprare un aereo che abbia tutte le funzioni, sia di caccia, certo. Sia, e quindi si risparmia, perché si usa c'è la manutenzione, c'è di soltanto un modello di aereo. Se tu hai una flotta di autovetture aziendali dello stesso, tutte dello stesso modello, hai un risparmio nella logistica, nella gestione dei ricambi, nell'assistenza. Ovviamente. E invece in Italia cosa si fa? L'Italia che non ha i soldi, diciamo la verità, l'Italia che soprattutto nei bilanci difesa vede massacrato la voce esercizio, cioè quei soldi che vengono spesi per far funzionare gli apparati, le armi, per la manutenzione, per l'addestramento. L'Italia che anche oggi non ha i soldi per fare il pieno alla porta aerea, ai Cavour, o per fare il pieno agli aeroplani, o per fare la manutenzione ai mezzi danneggiati, a riparare i mezzi danneggiati in Afghanistan, perché questa è la realtà di oggi. In futuro potrà permettersi di gestire due linee di aerei da combattimento, entrambi complessi come l'F-35 e il Typhoon, potremmo permetterci di dire i Typhoon li usiamo solo come caccia, anche se li abbiamo pagati per fare anche i cacciabombardieri, e usiamo gli F-35 solo come cacciabombardieri. Io credo che il rischio sia quello, per fare i paragoni che tu giustamente fai, della famiglia, che io e te ci mettiamo a comprare una Ferrari, ma non abbiamo i soldi per farle il bollo, l'assicurazione e il pieno. Ce la ritroviamo in garage, la andiamo ad ammirare, la lucidiamo, ma non ci serve come auto. Che onestamente è un atteggiamento molto diffuso alle nostre latitudini, fare il passo più lungo della gamba. Quanta gente c'ha il macchinone e fa il bollo soltanto i 3 mesi per andare a fare il fighettone nelle zone di villeggiatura? Lo fanno allora tanti. Firmeremo cambiali, no? Firmeremo cambiali per gli F-35. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Io avevo una domanda. Praticamente sapevo che l'F-35 poteva decollare dalle nostre porte aerei e che l'Eurofighter no. È vera questa cosa? Sentiamo subito se Gianandrea Gaiani ci può rispondere. Sì. Ha perfettamente ragione, infatti tu hai citato prima l'intervista che ho fatto oggi sulla stampa, è proprio questo il problema, che noi l'F-35 è indispensabile per l'Italia per una sola fornitura, i 15 velivoli previsti a decollo corto e atterraggio verticale per la porta aerei Cavour della Marina. Perché? Perché la porta aerei Cavour può imbarcare solo velivoli che decollino su da un ponte corto e possono atterrare verticalmente. E l'unico velivolo in sviluppo per il futuro di questo tipo è la versione B dell'F-35. Quindi in teoria 15 solo sarebbero quelli indispensabili. Lo ha detto anche autorevolmente il sottosegretario alla difesa Roberto Pinotti pochi giorni or sono. E questi aerei però noi li potremmo acquistare, magari non oggi che costano moltissimo perché è ancora in corso la fase di sviluppo dell'aereo. Noi per ordinare i primi velivoli abbiamo già speso, e gli anticipi su quelli successivi abbiamo già speso impegnato 1 miliardo quasi di euro, ma questi F-35 a decollo corto e atterraggio verticale noi li potremmo comprare fra 10 anni, quando gli aerei Harrier che impieghiamo oggi saranno già vecchi, pigliandoli magari in leasing dai Marines o magari negoziando di seconda mano però. Ma anche nuovi, anche noi, perché saranno già in produzione per i Marines, magari negoziandoli come scambio con gli americani per la concessione delle basi di Sigonella ed Aviano che loro abbondantemente impiegano per le loro operazioni, che non sempre sono connesse con quelle dell'Italia o della NATO, ma sono operazioni. Ma quanto tempo è che non li usiamo in maniera operativa noi, gli aerei da combattimento? Qual è l'ultima volta che gli italiani hanno usato aerei? Per il combattimento? Sì. Beh, 2 anni fa sulla Libia, ne parlammo anche nel tuo programma. Ah sì, Libia sì. E invece cacciabombardieri? No, noi tutti abbiamo usato, guarda, le operazioni di guerra delle forze aeree italiane sono cominciate ufficialmente nel 91, quando, ti ricorderai il caso Corcellone Bellini, andiamo a bombardare l'Iraq con alterne fortune. Nel 99 abbiamo bombardato in Kosovo, in ambito NATO. Ampiamente, una volta lì. Addirittura qualche anno prima abbiamo tirato anche qualche bomba nel 95 sui serbi di Bosnia. E poi abbiamo partecipato recente alla guerra in Libia nel 2011 e subito dopo, e ancora oggi questa è in corso, abbiamo 4 cacciabombardieri AMX in Afghanistan che ogni tanto bombardano i talebani. Quindi diciamo li stanno usando, soltanto c'è la litizzetta, ci facciamo la parata il 2 giugno. Uno può essere d'accordo, no, in generale, ma negli accordi internazionali a quali siamo legati, comunque di difesa, di forze, di interforze, in qualche maniera dobbiamo avercele queste attrezzature, sennò cosa faremmo? Guarda, dobbiamo avercele anche per una ragione sola. Io credo che il vero peccato del dibattito parlamentare è che si è risolto in una questione puramente ideologica, nel senso che la sinistra pacifista ha detto compriamo gli asili invece degli F-35, e dall'altra parte la risposta altrettanto ideologica: ci servono assolutamente, sono indispensabili, dobbiamo rimpiazzare 250 aerei, che non è vero, gli aerei da rimpiazzare sono 130, perché oggi fra Tornado, MX e Harrier, quelli in servizio, sono circa 130, ne comprammo 250 30 anni fa, ma ne sono rimasti 130 in linea. Allora tutti rispondono, cioè il dibattito si è soffermato sugli aspetti ideologici da una parte e dall'altra, quando invece bisognerebbe forse affrontarli in maniera più pragmatica. Spingiamo la politica, guarda, si riempie. Scusa, per questo ho chiamato te questa mattina, volevo fare proprio il conto della spesa per dire cosa serve in famiglia, cosa è indispensabile, di cosa si può fare a meno. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, però sono molto soddisfatto perché vedo che è esattamente quello che mi ero proposto questa mattina, uscire dal dibattito ideologico che non mi interessa, gli aerei sono cattivi, mettiamo i fiori nei nostri cannoni, facciamo gli asili, non facciamo le caserme, è roba che questa mattina non mi interessa. Cosa è realmente indispensabile alla nostra famiglia Stato di acquistare in termini di cacciabombardieri? Quali servono? Cosa si potrebbe risparmiare? Quale sarebbe meglio acquistare? Melog, la realtà condivisa. Sapete, no, gli aerei, gli F-35, quei bombardieri che abbiamo comprato per 15 miliardi. 15 miliardi, sai quei bombardieri super tecnologici, avveniristici? Quei bombardieri che non temono niente, nessuno? Ecco, tutto ottimo, eh? Ma se c'è un temporale, pare che esplodano. Cioè, invece che i nemici, bisogna tenere sotto d'occhio il meteo. Ma scusate, ma si può pagare uno sproposito, una cosa che neanche funziona? Ah già, abbiamo 1000 parlamentari. No, si può. Questo era Crozza che dava spazio, ma qualche tempo fa, a quelle che sono le obiezioni pop che circolano sui cacciabombardieri, sì, perché improvvisamente diventiamo tutti esperti anche di difesa, ignorando che in realtà è una parte dello Stato della quale bisogna tenere conto. Mi stanno arrivando dei tweet, Orchidea mi scrive, come ci si senta a far sempre gli schiavi dei padroni di Confindustria, a cercare di giustificarla con logiche astratte. Ma chi ha detto dobbiamo sostituire i vecchi aerei? Ma vedo che, come pensavo, avete il compito di difendere Finmeccanica. Nicoletti, una famiglia proletaria, in quali condizioni si compra una motocicletta di ultima generazione da 40-50 mila euro? Sarebbe una scelta ok? E via dicendo. È logico che questa mattina io non voglio entrare in merito sulle macro scelte rispetto ai trattati internazionali, al fatto che la nostra Costituzione dice che ripudiamo la guerra come strumento di offesa, in realtà questi sono aerei d'offesa, sono tutte, diciamo, riflessioni ridotte a slogan che lasciano il tempo che trovano. Noi questa mattina volevo, una persona che conosce la materia, fare un punto proprio di tipo economico. Qual è la scelta migliore, dato per scontato e comunque degli aerei dobbiamo averli e dobbiamo integrare quello che già abbiamo con quello che dobbiamo acquistare, e qualcosa sta venendo fuori. Voglio dare voce, prima di far parlare, Gian Andrea Gaiani, che ricordo che è giornalista, dirige il mensile web Analisi Difesa e si occupa appunto di analisi storico-strategiche e studia la materia di cui stiamo parlando, anche collaboratore del Sole. Sentiamo qualche ascoltatore che aspetta da un po' di tempo. Luigi, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, il discorso è questo. Lei comprerebbe una Rolls Royce che non c'è ancora scritto il software della gestione del motore? No. Allora, se in Italia ci fosse del buon senso, cosa che non c'è, ma siamo soltanto in una babele di persone indotte o pseudo esperti o esperti che non lo vogliono essere, e ci fanno fare delle scelte che sono discutibili. È logico che ci interessano quegli aerei lì perché Finmeccanica ha costruito delle portaerei, ma neanche il Duce le voleva le portaerei, perché adesso con i rifornimenti in volo si può andare ovunque. Detto questo, si può... La domanda la ponevo io, che adesso porrò anche a Gaia. Aspetta, gliela pongo subito, resti in linea. Gaiani, ma il problema, se noi rinunciassimo alla portaerei e la cambiassimo, non ci sarebbe più nemmeno bisogno, dal punto di vista economico, sarebbe un'operazione che avrebbe la sua efficacia, invece che comprare degli aerei, i 15 minimi che lei dice, per metterli sulla Cavour, cioè, con la Cavour ci facciamo qualcos'altro, e è un discorso impossibile questo ormai. Allora, il discorso non è impossibile, si tratta di pianificare perché abbiamo una porta aerei, perché il nostro paese anni fa ci ha dato un'impronta strategica, pensando a che cosa dovranno fare le nostre forze armate. Cambiano gli scenari, chiaro. Siccome ci sono possibilità serie che le nostre forze armate, come è già accaduto, vengano impiegate in aree lontane, dove magari non è possibile rischierare reparti aerei, o magari bisogna appoggiare truppe che devono sbarcare a terra, allora avere una porta aerei piccola come la nostra, non è paragonabile a quelle americane ovviamente, con una dozzina di aeroplani di questo tipo a bordo, consente di poter portare anche in operazioni belliche, non solo missioni di pace, diciamo, un certo numero di militari in azione, offrendogli una buona copertura aerea. Del resto il nostro paese dipende largamente per l'import e per l'export dal traffico marittimo, quindi disporre di mezzi idonei a proteggere il traffico marittimo contro qualunque tipo di minaccia è stato considerata una soluzione, la cosa migliore da fare, quindi la porta aerea. Se poi l'Italia domani decidesse che non gli serve più una marina in grado di muoversi fuori dal Mediterraneo o lontano dalle acque di casa, che non gli serve più una forza aerea in grado di andare a bombardare eventuali nemici, se ancora questo termine si può usare, allora possiamo fare a meno di tutto, ma finché il nostro modello di difesa prevede di dover far fronte a queste minacce e di partecipare alle operazioni all'estero, questo tipo di armamenti servono. Quindi attuale ancora, la porta aerea è attuale nel piano di difesa? Se noi pensiamo di andare nell'Oceano Indiano a fare operazioni, sì, se rinunciamo a questa opzione e restiamo nelle acque di casa potremmo anche farne a meno, ma questa è una scelta sulla quale giustamente magari qua dovrebbe esprimersi la politica in maniera seria, cosa che invece non fa. Sì, non mi sembra sia affrontato in maniera tecnica il problema. L'impressione, ascoltandoti da profano, perché io sto imparando mentre ascolto te, che non venga affrontato in maniera tecnica, non sono dei tecnici a parlare, si parla di pancia. Faccio terminare la telefonata a Luigi, aveva altro da dire? Cioè, il discorso è appunto, mi ricollego a quello che ha detto il signore lì, certo, si può fare altre scelte, al posto che spendere degli aerei che non vanno bene per nessuno, perché anche gli americani non sono contenti. Sì, però Luigi, non è che si fanno al bar queste scelte per sentito dire, dovrebbe farle chi ha studiato e ha, diciamo, i termini oggettivi. Sì. Di Paola, secondo me, non sa neanche da che parte è girato. Vabbè, quello è un ministro, mica deve essere un esperto. Se no si prenderebbe un capo di Stato Maggiore a fare il ministro. Se, come ripeto, se usassero il buon senso, come dice il signore, si potrebbero prendere degli aerei usati. Non è la prima volta che prendiamo degli aerei in leasing. Il Tornado, che erano schierati giù in Puglia, erano comprati in leasing dall'Inghilterra. Ma lei come me ne sa tanto, Luigi? Della materia se ne occupa? No, studio, leggo e mi informo. È un appassionato, diciamo. Sì. È molto. Ma queste appassionato. Cose qua sono scritte ovunque. Sì, sì, aveva una vera passione. Che dico che Di Paola. Anche l'allevamento dei cincillà è scritto ovunque, ma legge chi è interessato. Sì, è interessato. Però mi fa specie che un ministro queste cose qua, siccome ci sono, non le ascolta. Ma il problema è che in Italia siamo gestiti dalla gente che ci ha creato una Babele su tutto. Su tutto. Diciamo, questa è la sua opinione. La mia opinione è che in realtà siamo un paese in cui tutto viene spostato su un piano ideologico ed emotivo. Non si può parlare tranquillamente, serenamente di armamento, di aerei da combattimento, che improvvisamente uno si pone il problema, lo scrupolo di dire ma sì, è qualcosa di negativo perché servono a uccidere delle persone. Ma la funzione fondamentale della difesa e dell'esercito è mettere insieme truppe e armamenti per sapersi muovere in caso di conflitto in cui c'è un nemico, ci sono delle persone con cui vanno contrastate o in varie maniere, e contrastare significa anche annichilire le persone. Valerio. Buongiorno. Sì. Dunque, io a costo di rischiare di far la parte del guerrafondaio, salterò a pie pari una serie di considerazioni realmente, diciamo, di carattere anche così politico-strategico, che però mi farebbero deviare, perché tra l'altro il vostro ospite le ha trattate e le ha affrontate in una maniera, secondo me, molto equilibrata e molto opportuna. Io volevo rimarcare una cosa, Nicoletti. Veda, anzitutto noi non è che stiamo comprando degli aeroplani. Noi siamo entrati per il 4% nel programma F-35, sì, che comporta accettare i rischi di sviluppo, i costi di sviluppo, contando sul fatto che poi dopo avrai una contropartita a livello occupazionale di indotto, perché poi ci saranno tutta una serie di industrie di qua e di là, che una fa un pezzettino, una fa un alettone, a una verrà affidato il costosissimo radar, a un'altra verrà fatto un comando degli infrarossi e cose del genere, e così facendo è vero che spendiamo un sacco di soldi, però dovremmo tenere in conto, questo è quello che ci hanno raccontato, anche del fatto che il ritorno occupazionale, il ritorno di fatturato per le industrie certo. italiane farà sì che la spesa netta reale sarà alla fine molto più contenuta, per cui o ammortizzata dal fatto allo sviluppo, che... esatto, partecipando allo sviluppo la cosa ci sarebbe convenuta molto di più. Il problema qual è? È che secondo gli americani acquirenti, attenzione, l'industria aeronautica americana è privata e lo Stato americano, la US Air Force, e la US Navy e quant'altro sono dei clienti che osservano i prodotti che gli vengono offerti con molta più freddezza e con molte più aspettative e molta più severità di noi, che invece stiamo già decantando un qualche cosa il cui sviluppo per adesso purtroppo sta andando sorprendentemente male. Qual è il suo punto di vista? Vorrei capire esattamente. Il mio punto di vista è questo, che se l'ammiraglio Greenert al Congresso degli Stati Uniti, in un'audizione molto arrabbiato, ha garantito al Congresso che lui pretenderà da una versione dell'F-35C una serie di prestazioni almeno equivalenti a quelle del Super Hornet, cos'è il Super Hornet? È l'FA-18, certo. che è un caccia che ha volato la prima volta nel 1978. Ma posso farle una domanda? Scusi, cosa fa lei nella vita? Perché io sono sorpreso e ammirato dalla sua competenza, come dell'ascoltatore prima. Io sono un fotografo scientifico e un giornalista scientifico che è appassionato di direzione, e nella vita mi occupo d'altro, mi occupo di archeologia, di beni culturali, però lo sa una cosa, no, io la mia ma lo dico con ammirazione, che in questa materia esiste in Italia una fortissima tendenza a documentarsi dal basso, da normali cittadini. Man mano che saliamo di livello, sembra che queste competenze scompaiano e si ragiona poi in termini ideologici, bene, brutto, male, facciamo gli asili. Questa è la cosa che mi sorprende. Purtroppo a quel punto temo che entrano in ballo fattori di carattere economicistico legati ai rapporti fra stati e legati ai rapporti fra l'economia. Quindi lei, in base alle sue conoscenze e alla sua cultura in questo campo, sarebbe per gli F-35? No, io non sarei per gli F-35, primo per una serie di ragioni, è d'accordo con Gaiani, diciamo, usiamo il più possibile, diciamo, l'apparato europeo di costruzione di aerei perché ci conviene. Per quale motivo? Perché prima di tutto il caccia, quello che noi a quel punto dovremmo relegare al ruolo di caccia intercettore puro, cioè l'Eurofighter Typhoon, che peraltro non è un aeroplano economico, è un aeroplano costosissimo. Sì. È un aeroplano che invece, vedi caso, poteva anche non succedere questo, ha avuto uno sviluppo alla fine del quale si è ottenuto un aeroplano ottimo, al punto che... Ma è quello che dice Gaiani, esattamente questo. Una squadriglia di piloti inglesi che è andata a una manifestazione aerea di quelle manovre militari congiunte con gli americani, ha fatto vedere i sorci verdi, vincendo tutti i duelli aerei simulati con un aeroplano iper ultra costoso invisibile radar che si chiama F-22 Raptor. Si fermi un attimo, devo fermarla, perché a parte dobbiamo dare la linea al traffico. Gianandrea Gaiani, se mai ti servisse un assistente ti do i riferimenti di questo ascoltatore. Sì, ma quindi, come dicevi giustamente tu, ci sono molte più competenze e interesse su questi temi tra l'opinione pubblica che tra i politici che dovrebbero... È assurdo, ma è così esattamente. Io l'ho lasciato parlare questo ascoltatore, ma ti rendi conto? Una persona che si è documentata. Cose condivisibili e verissime, assolutamente vere. Tutto quello che ha detto è vero. Non devo aggiungere nulla a proposito. Quindi esistono fonti aperte in cui uno possa comunque documentarsi e farsi un'opinione, se esso ministro, viceministro, politico, all'opposizione, nelle forze di governo, in cui si può avere un quadro esatto e oggettivo di quella che è la situazione. Melog, la realtà condivisa. Nemmeno pongo più la domanda cosa ne pensate degli F-35, perché vedo che ne sapete di gran lunga di quanta ne sappiano le persone che probabilmente ieri hanno votato a favore o contro l'acquisto. In realtà non hanno preso nessuna decisione, hanno detto aspettiamo 6 mesi, valutiamo. Ecco, se volessero valutare, se avessero bisogno di altri elementi, a parte gli ufficiali fornitori di pareri oggettivamente importanti in questo settore, c'è l'ascoltatore Valerio, che abbiamo sentito poco fa, che ne sa tantissimo. Sentiamo Mirko. Mirko, buongiorno. Ciao, buongiorno. Prendo un secondo per dire che apprezzo tantissimo il tono della trasmissione e poi entro subito sull'argomento. Quello che deve essere chiaro è io non sono né contro né a favore. Cosa fai nella vita, Mirko? Faccio l'elicotterista. L'elicotterista, civile o militare? Militare. Militare. Quello che vorrei che fosse chiaro. Qualcuno l'ha presa anche per un elicottero l'F-35 giorni fa, quindi in qualche materia, in qualche maniera è competente la tua. Niente, quello che deve essere chiaro è che questo F-35 è un aereo di generazione nuova rispetto a quello che è l'EFA, cioè sono due cose che non sono comparabili. La tecnologia che viene applicata su questo aeromobile è una tecnologia stealth che è stata segretissima per molto tempo. Cioè l'aereo invisibile. Sì, si tratta di materiali, di vernici, di motori, di come... Allora, tutta questa tecnologia, questo era il punto che volevo portare, può dare un impulso notevolissimo a quella che è l'industria. Faccio un esempio per quanto riguarda gli elicotteri. Tempo fa, dopo la guerra, noi abbiamo cominciato a costruire gli elicotteri su licenza americana. Abbiamo imparato a fare gli elicotteri, adesso l'Augusta è il leader al mondo per la costruzione degli elicotteri. Quindi se non si riesce ad avere la tecnologia, difficilmente si possono avere esperienze belle come quelle che è stata quella dell'Augusta. Quindi bisogna, qual è il tuo punto, punto di vista? Paolo, sia gli F-35, così acquisiamo know-how anche la nostra industria nazionale, un domani faremo anche noi gli aerei invisibili, tradotto perfetto, in termini comprensibili. Perché l'F è già vecchio. È già vecchio, cioè questo aereo qua è qualcosa di nuovo, non si deve paragonare in termini di prestazioni. Fermo l'amico, Gianandrea Gaiani, quest'altro ascoltatore, come vedi, non stai parlando a una trasmissione radiofonica popolare, ma stai parlando a un congresso di esperti in aeronautica, quindi attenzione a quello che dici. No, è vera questa, la questione del caccia di quinta generazione, dell'aereo di quinta generazione. Sull'aspetto del fatto che l'F-35 risulterà veramente invisibile ci sono molti dubbi, non sono i miei, sono quelli di diversi studi che dicono che insomma i nuovi radar riusciranno a vederli, anche perché questo aereo è invisibile nella sua parte di prua, diciamo, dovrebbe risultare invisibile nel davanti, per essere proprio chiarissimo, un po' meno nella parte posteriore. Però il problema è questo, che la tecnologia americana... Dipende da che parte ti arriva, se ti arriva da davanti va bene. Se arriva in retromarcia, lo vedi, vuol dire questo. No, intendo dire che il problema reale è un altro, è che le tecnologie segrete americane, quelle avanzate, non ci verranno date. Tu pensa che noi abbiamo scritto recentemente su Analisi Difesa un articolo, l'unico credo uscito finora in Italia, sul sistema logistico di questo F-35, l'ALIS, che dovrà, che imporrà di restare collegati in rete con il cuore logistico del sistema, che è negli Stati Uniti, anche per impostare le missioni. E non ti fa mettere le mani sulla manutenzione, il vero affare è quello, poi non tanto vendertelo. Tutta la parte high tech. Allora il problema, lui, l'esempio che ha fatto di Augusta è vero, noi nel dopoguerra abbiamo cominciato a produrre su licenza gli elicotteri americani, gli AB-47, quei piccoli elicotterini, ma noi oggi siamo diventati produttori di elicotteri, progettatori, e infatti i nostri elicotteri concorrono alla gara per l'elicottero del presidente americano. Poi gli americani, scusami Gianluca, gli americani ci impongono di comprare i loro aerei, ma non si comprano i nostri elicotteri. Allora, se noi oggi comunque, seguendo questo discorso, tornassimo indietro, siamo già produttori di ottimi aerei da combattimento che nelle gare internazionali concorrono con quelli americani, a volte vincono contro quelli americani. Torniamo indietro a diventare subfornitori, perché è vero che Lockheed Martin ci darà del lavoro che compenserà in parte. Vedo che a Novara stanno costruendo uno stabilimento, mi scrive un ascoltatore. L'abbiamo già fatto, abbiamo speso 800 milioni di euro dello Stato italiano per, in questo stabilimento produrremo ali e verranno assemblati gli aerei per l'Italia e forse per altri paesi. Mille persone ci lavoreranno, è vero? Si dice, per adesso ce ne lavorano poche decine, dovrebbero arrivare a 700, però attenzione, le persone che lavoreranno lì dentro in gran parte saranno quelle che non lavoreranno più al programma Eurofighter, al programma europeo di cui siamo progettatori, produttori ed esportatori. Quindi non sono nuovi posti di lavoro, li spostano? No, ci sono alcuni posti di lavoro nuovi, ma la gran parte sono di spostamento. Ma il problema serio è un altro, che noi, se rinunceremo a sviluppare la nostra tecnologia, i nostri aeroplani, fra qualche anno la nostra industria dipenderà esclusivamente dalle commesse come subfornitori degli americani, e quindi sarà il primo passo per farci assorbire le industrie dai grandi colossi americani, Lockheed Martin per primo. Questo è un aspetto strategico di cui la politica dovrebbe occuparsi, al di là dell'aereo e del suo impiego. Quindi mi sembra che il vero problema sia questo. Noi possiamo adesso giocare, raccontarci barzellette, dare materia a tutti i comici del paese, però in realtà il vero problema è questo. Sì, io credo che sia questo, anche perché dobbiamo tenere conto che quello che ha tenuto insieme gli Stati Uniti e l'Europa negli interessi comuni dopo la fine della guerra fredda, della contrapposizione all'URSS, è stato un aspetto strategico ed economico fondamentale, la mantenere in sicurezza le aree energetiche mondiali. Noi abbiamo combattuto più o meno insieme in queste aree in questi ultimi anni per l'interesse comune. Gli interessi americani stanno divergendo però da quelli europei, lo sarà sempre di più perché gli Stati Uniti stanno diventando non solo autonomi e autosufficienti sul piano energetico, ma nel 2020 saranno grandissimi esportatori di energia, grazie allo shale gas, shale oil, la produzione di questi di energia dalla frantumazione delle rocce che gli americani stanno portando avanti. Quindi in futuro i nostri interessi con quelli degli Stati Uniti saranno sempre più divergenti. Ritrovarci strategicamente e militarmente dipendenti dagli americani, con un aereo che gli americani potrebbero bloccare con un clic se volessero impedirci di usarlo per interessi. Poi ci metti alle rotelle e ci andiamo a spasso tirandolo con un somaro, perché non ci possiamo fare altro se le cose vanno come dici te. Sì, io credo che adesso, non so se andranno come dico io, però credo che su questi argomenti bisognerebbe fare un dibattito serio e approfondito che coinvolga, perché la decisione è parlamentare, la politica, e questo non si vede. E questo secondo me è il grande gap di cui noi tutti dobbiamo, che noi tutti soffriamo in questo momento. Beh, Gianandrea, io ti ringrazio intanto di averci dato qualche lume. E quello che modestamente avrei voluto fare, in parte penso esserci riuscito questa mattina, parlare del grande caso degli F-35 di cui parla tutta l'Italia, molti con grandissima competenza, molti in maniera del tutto cialtrona, ideologica, emotivamente fuorviante, e capire che il vero problema è proprio questo, un problema che è proprio legato al nostro sviluppo industriale e al nostro benessere, non tanto a nostra capacità, volontà o anima profondamente guerrafondaia. Grazie a Gianandrea Gagliani, grazie ad Alessandro Chiappini e a Fabrizio Intonti, li saluto perché domani sarà l'ultima puntata.